Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Noi cittadini, con questi dipendenti, con questi dirigenti onesti, con voglia di fare, riusciremo a invertire la rotta e a far ripartire la città. Quindi sì, sì che vogliamo governare. Caspita se vogliamo governare. Caspita se vogliono governare i 5 Stelle, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Avevamo iniziato l'incipit di lunedì, proprio all'inizio della settimana, con Paola Taverna del Movimento 5 Stelle, che aveva tirato fuori un po' questo paradosso: c'è un complotto per farci vincere a Roma. Paola Taverna del Movimento 5 Stelle. Questa volta è invece Virginia Raggi, è venuta fuori ieri dalle comunarie, dai voti online per il Movimento 5 Stelle, per selezionare i candidati al Campidoglio a Roma. E Virginia Raggi, avete sentito, caspita se abbiamo voglia di vincere, quindi cambia un po' registro. Parleremo naturalmente, visto che venerdì l'ultima puntata della settimana, come sempre di politica, un bilancio, un consuntivo della politica di questa settimana. Naturalmente sempre in primo piano le unioni civili, ma poi anche la partita per Roma, per l'appunto, come si diceva. Vedo intanto Berlusconi che dice: Bertolaso rimane il miglior sindaco per Roma, però Salvini ribadisce: cerchiamo il candidato migliore, Roma merita una settimana di riflessione. Quindi stanno ancora riflettendo. Quello che vi chiedo stasera è poi questa, a proposito di una dichiarazione forte che ha fatto la ministra per le riforme Boschi. Ha detto: il PD non è autosufficiente sulle unioni civili, non ha i numeri, serve un'intesa. Come commentate questa dichiarazione dopo tutto questo iter convulso del disegno di legge Cirinnà? Come lo commentate e secondo voi quale tipo di intesa è possibile? Quale tipo di intesa ci potrebbe essere o intesa che voi auspicate? Come sempre i vostri due canali privilegiati per intervenire sono la pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte, oppure gli SMS al 349-238-6666. Lo ripeto, 349-238-6666. Cosa pensate di questa dichiarazione della ministra Boschi? Ritenete appunto che come potrebbe essere questa intesa che lei dice, con chi ci sta? Naturalmente dice un'intesa con chi ci sta, come potrebbe essere, o come la auspicate voi, in quali termini, insomma. Molti altri i temi, per esempio c'è anche questo rapporto dell'Istat sull'Italia, rapporto demografico, secondo il quale nel 2015 non solo record in basso di natalità, ma record in alto di decessi. Come mai? Qual è la spiegazione? Perché c'è stato un boom di decessi in Italia nel 2015, molti quindi temi. Intanto comincio a riassumervi la giornata. Migranti, l'Austria sfida l'Unione Europea via il giro di vite, la trattativa con la Gran Bretagna appare in salita, il presidente francese Hollande si oppone a regole speciali per la City di Londra. Il rapporto Istat, l'Italia invecchia, siamo meno di un anno fa, culle vuote, boom di decessi, diminuisce anche l'aspettativa di vita. Lotta al terrorismo, raid statunitensi in Libia sul covo dell'ISIS, colpiti gli attentatori del Bardo, e a Mosul i terroristi islamici decapitano un quindicenne che ascoltava musica occidentale. L'autobomba ad Ankara, il gruppo curdo TAC rivendica l'attentato e la risposta, dicono, alle politiche di Erdogan, attaccheremo ancora. La polemica di Trump col Papa, il magnate frena, Francesco è una persona meravigliosa, intanto il suo team twitta: pensi alle mura vaticane. Unioni civili, la ministra Boschi ammette, il PD non è autosufficiente, mancano i numeri, serve un'intesa. L'insegnante scomparsa il 13 gennaio, Gloria Rosbock, è stata trovata morta in un bosco di Rivara nel Canavese. Fermato l'ex allievo, sarebbe stata strangolata. Lutto nella letteratura, è morta a 89 anni Harper Lee, l'autrice del Buio oltre la siepe. Formula 1, la Ferrari lancia la sfida mondiale, svelata la nuova SF16H. E per il calcio, anticipo di Serie A in campo Bologna-Juventus. Partiamo quindi dal Consiglio europeo, che è arrivato al suo secondo giorno. Temi sul tavolo sempre l'emergenza immigrazione e il tentativo di trovare un accordo con la Gran Bretagna per evitare la sua uscita dall'Unione Europea, la cosiddetta Brexit. Ma su entrambi i temi ci pare che la strada sia ancora in salita. Ce lo confermi Sergio Nava? Ciao Sergio. Sì, ciao Roberta. Beh, sulla questione immigrazione sostanzialmente è un work in progress, lo dicevamo con te anche ieri. Adesso ci dovrebbe essere un vertice straordinario con la Turchia, poi a inizio marzo, da quanto si è capito, per cui in realtà anche poi i fatti di cronaca, insomma, con l'Austria che inserisce le quote ai valichi, eccetera, fanno capire che c'era ancora di strada da fare, quindi è stato alla fine un vertice abbastanza interlocutorio. Il vero nodo sul tavolo in tutta la giornata di oggi è la Brexit. Finalmente si vedono a cena i leader, i 28 leader europei dopo un'intera giornata passata ad aspettare questo a colazione, poi pranzo, poi cena. Questo è anche un buon segnale, vuol dire che alla fine la volontà di chiudere c'è, dovrebbe essere alla fine trovata un'intesa questa sera, che complicherà ulteriormente poi l'architettura istituzionale europea, perché chiaramente poi si instaurerà la regola per cui un paese ha delle condizioni speciali della Gran Bretagna. Alla fine i nodi del contendere sono stati sostanzialmente due: i sussidi ai migranti europei che vanno in Gran Bretagna a lavorare, in particolare ciò che riguarda i figli che si trovano, che restano però nel paese diciamo di partenza, di origine, e quindi tutta un'indicizzazione particolare per ridurre i sussidi ai figli che restano magari con le mogli nel paese origine, questione molto tecnica ma che alla fine ha bloccato per una giornata intera, anzi due, i negoziati, e poi la questione della City di Londra, e quindi quanto poi i regolamenti diciamo dei paesi che fanno parte dell'Eurozona possono influire sulla City Londra. Cameron chiede uno status speciale che un po' la esenti da questi regolamenti più comuni all'Eurozona. La Francia, lo hai detto tu, invece no. Su questo alla fine bisognerà capire, si giocherà la partita finale. Molto si è già giocato perché è stata una giornata di intensi bilaterali, qualcosa è filtrato, però chiaramente ne capiremo di più stasera o stanotte, a seconda di quando finirà poi questo certo. Grazie Sergio Nava. Grazie a voi. Ciao Sergio. E mentre appunto Bruxelles continua questa trattativa a oltranza, anche sui migranti, sulle coste siciliane c'è stato un nuovo naufragio, almeno due le vittime tra i migranti libici e tunisini a bordo di un barcone finito spiaggiato sulle coste dell'Agrigentino. Intanto UNICEF e l'Agenzia dell'ONU per i rifugiati avvertono: dal settembre 2015 nelle acque del Mediterraneo orientale sono annegati in media due bambini al giorno. Siamo al rapporto Istat che fotografa la situazione demografica del nostro paese. L'Italia invecchia, siamo meno di un anno fa, le culle sono sempre più vuote e, dato piuttosto inquietante, nel 2015 c'è stato un boom di decessi e diminuisce anche l'aspettativa di vita di noi italiani. Come mai questo record di decessi? Ne parleremo più tardi con il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Parliamo di lotta al terrorismo adesso. Bombardamenti americani in Libia e tra le vittime ci sarebbero le menti della strage in Tunisia. Un raid molto preciso che ha colpito una casa sola, ha riferito un funzionario del governo di Tripoli. 41 le vittime, 6 i feriti, nessun libico, tutti foreign fighters, tutti combattenti riuniti in un campo di addestramento nei pressi di Sabrata, 70 chilometri da Tripoli, un centinaio dalla Tunisia. Tra le vittime Nureddin Kushan, tunisino di 35 anni, il principale obiettivo del raid, perché ritenuto uno degli organizzatori degli attentati in Tunisia dello scorso anno, quelli al Museo del Bardo e sulla spiaggia di Sousse. Il fatto che attorno a lui fossero riuniti tanti jihadisti ha fatto temere che si stesse organizzando un'altra azione terroristica. Secondo il Pentagono sono circa 5.000 i jihadisti dell'ISIS presenti in Libia, la maggior parte dei quali di nazionalità tunisina. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E c'è un nuovo orrore perpetrato dai jihadisti dell'ISIS. Un ragazzo di 15 anni sarebbe stato decapitato in pubblico a Mosul, in Iraq, alla roccaforte dello Stato Islamico, perché è colpevole di ascoltare musica occidentale. Lo riporta l'agenzia di stampa curda ARA, aggiungendo anche questo agghiacciante dettaglio che i tagliagole avrebbero poi portato il cadavere senza testa ai genitori. Siria, la situazione è sempre più drammatica e confusa. Qual è la novità? Che il ministro degli esteri dell'Arabia Saudita vuole rifornire i gruppi moderati di opposizione in Siria di missili terra-aria. L'ha detto lo stesso ministro in un'intervista pubblicata sul numero dello Spiegel in uscita domani, di cui è stata fornita questa anticipazione. I missili permetteranno all'opposizione, dice il ministro, all'opposizione moderata di abbattere elicotteri aerei del regime, quindi contro Assad. Quindi più che contro l'ISIS, questa continua a essere anche una guerra tra Assad, il regime e l'opposizione. L'autobomba ad Ankara, quella di cui abbiamo parlato in questi giorni, due giorni fa, il gruppo Falconi per la liberazione del Kurdistan, il TAK, ha rivendicato quell'attentato di mercoledì che ha ucciso 28 persone nel centro di Ankara, la capitale turca, definendolo come una risposta alle politiche del presidente Erdogan e minacciando altri attacchi. E rimaniamo all'estero, negli Stati Uniti, con la polemica di Donald Trump con il Papa. Lui, il candidato repubblicano, cerca di fare retromarcia ma non rinuncia alla battuta. Il Papa, una persona meravigliosa. Donald Trump, l'outsider repubblicano per la Casa Bianca, cerca di smorzare i toni della polemica dopo che ieri il pontefice, di ritorno dal viaggio in Messico, aveva tuonato: «Non è cristiano chi vuole costruire muri». Trump, che nei giorni scorsi aveva criticato fortemente il Papa, ora, assicura la CNN, sarebbe anche pronto ad incontrarlo, pur non rinunciando a qualche stoccata nel ricordargli le grandi mura che ci sono in Vaticano. Secondo il miliardario, che ha ribadito la necessità di avere una frontiera con il Messico, comunque sarebbero stati i media a pompare l'attacco nei suoi confronti. Parole, ha precisato il portavoce vaticano, che non sono da intendere riferite al caso specifico, né tantomeno una indicazione di voto da parte del Papa. Francesco, ha detto padre Federico Lombardi, ha detto quello che ben sappiamo quando seguiamo le sue posizioni, che non bisogna costruire muri ma ponti. Non è affatto una questione specifica. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alla politica italiana, con le unioni civili, la missione in serata della ministra Boschi, che parlava a Bologna, ha detto: le leggi si fanno se ci sono i numeri, e ad oggi in Senato il PD non è autosufficiente sul disegno di legge sulle unioni civili, non lo è nemmeno se sommiamo i voti di SEL, quindi dobbiamo creare un punto d'incontro tra le forze che ci sono. Passiamo alla cronaca: è stata trovata morta l'insegnante, scomparsa un mese fa. È stato ritrovato a Rivara, nel Canavese, a pochi chilometri dalla sua casa, il corpo di Gloria Rosbach, la professoressa scomparsa più di un mese fa in provincia di Torino, dopo aver raccontato ai suoi di dover andare ad una riunione a scuola. I carabinieri hanno messo in stato di fermo Gabriele De Filippi, ragazzo 22enne, ex allievo della Rosbach. Sin dai primi giorni dopo la scomparsa della donna, l'attenzione si è concentrata su di lui. A dicembre Gloria Rosbach aveva deciso di denunciarlo per truffa. Un anno prima era riuscito a farsi consegnare 187.000 euro, il risparmio di una vita, con la promessa di una nuova vita in Francia. Poi era scomparso. Gloria Rosbach aveva cercato di rintracciarlo, aveva parlato con sua madre, poi aveva deciso di denunciarlo. De Filippi è stato sentito dagli inquirenti l'ultima volta martedì scorso per oltre 5 ore. Oggi la svolta: il ritrovamento del corpo della donna e il fermo dell'uomo. In queste settimane gli inquirenti hanno lavorato per ricostruire i movimenti della Rosbach, per verificare l'alibi del ragazzo, per mettere a fuoco la dinamica e gli eventuali complici della truffa a danno della donna. Filomena Greco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino. E sempre in Piemonte, nuovo caso di maltrattamenti ad anziani e disabili. 18 dipendenti di una residenza per anziani nel Vercellese sono stati arrestati. Le persone sono state prelevate dal posto di lavoro nel pomeriggio nel corso di un blitz della polizia, di carabinieri e di guardia di finanza. Gli episodi di violenza contestati sarebbero decine. E il delitto poi di Yara Gambirasio, ci sono degli aggiornamenti. Esther Arzuffi e Marita Comi, madre e moglie di Massimo Bossetti, che è l'unico indagato per l'omicidio della tredicenne di Barbatesopra, saranno sentite il 24 febbraio nel processo a carico di Bossetti. Durante l'udienza di oggi, due carabinieri del RACIS hanno ricostruito in aula gli accertamenti sui computer dell'imputato, spiegando che erano state fatte ricerche su ragazzine tredicenni. Una ricerca risale al maggio del 2014, circa un mese prima dell'arresto. Aggiornamenti su Zika: le prove che il virus è legato alla microcefalia sono sempre maggiori, ma ci vorranno almeno 4-6 mesi per averne la certezza, lo ha affermato l'OMS durante una conferenza stampa a Ginevra. E parliamo di questo lutto nella letteratura: è morta Harper Lee, autrice del Buio oltre la siepe, scrittrice premio Pulitzer, aveva 89 anni, già in passato aveva avuto problemi di salute, nel 2007 era stata colpita da un ictus, però si era ripresa, e dal suo romanzo Il Buio oltre la siepe del 1960 è stato tratto anche un film nel 1962, interpretato da Gregory Peck nel ruolo di Atticus Finch, che venne premiato con 3 Oscar. Non so se sono una partita già da premi, questo anticipo di Serie A Bologna-Juventus, ce lo dice Giovanni Capuano. Giovanni. No, non ancora da premi. Ciao Roberta, buonasera. Ciao. È ancora 1-0-0 e siamo al 28esimo del primo tempo, però è una bella partita, soprattutto è una partita equilibrata, come del resto era anche prevedibile, perché questo è un campo insidioso, e infatti fin qui l'occasione migliore l'ha avuta il Bologna al 21esimo con un tiro da fuori di Mattia Destro, palla centrale ma che girava, c'è anche un po' di vento, Buffon ha fatto fatica, l'ha respinta con i pugni, è arrivato Don Sa al limite dell'area di rigore e ha sparato fuori, e a quel punto era davvero una buona occasione per il Bologna, però è anche una discreta Juve, quella impegnata in questo anticipo del venerdì, perché sta preparando la sfida contro il Bayern Monaco di Champions League. È la prima partita che la Juve fa da capolista, la fa su un campo difficile, c'è un po' di turnover, Dybala ad esempio è seduto in panchina, e questa però è anche una partita, ti racconto questo episodio di cronaca, che è stata preceduta da un atto increscioso, un lancio di una bomba carta verso il pullman della Juventus che si stava avvicinando allo stadio di Bologna. Fortunatamente questo ordigno è scoppiato a pochi metri dal pullman, pullman, non ci sono stati feriti, c'è stata soltanto una grande preoccupazione, un po' di spavento per chi si trovava sul pullman, e purtroppo è da segnalare non è la prima volta che accade a Bologna. Già 3 anni fa, proprio in occasione di Bologna-Juventus, l'arrivo del pullman dei giocatori bianconeri era stato segnato da alcuni episodi di violenza, e questa purtroppo è una cosa che non riusciamo a estirpare dai nostri stadi. Grazie Giovanni Capuano, a dopo per gli aggiornamenti, ciao. La notizia extra di questa sera è questa, che lo sappiamo già che le donne guadagnano meno degli uomini a parità di qualifiche, di ruolo, un po' in tutto il mondo, anche in Italia. Beh, adesso è stato fatto questo studio dall'Università di Tel Aviv, secondo il quale le donne guadagnano meno degli uomini anche quando vendono prodotti su eBay a parità di prodotto venduto, prodotto nuovo. Lei guadagna 80 centesimi per ogni dollaro guadagnato da lui, e dice questo studio che evidentemente anche in questo campo disuguaglianze e discriminazione di genere mettono le donne in sostanziale svantaggio. Ora stiamo per aggiornare chi viaggia, però voglio dare già uno sguardo ai vostri messaggi, ne vedo tra WhatsApp 349-238-6666 il numero per gli sms, e poi sulla pagina Facebook di Effettonote a proposito della dichiarazione della ministra Boschi in serata, che ha detto che a questo punto il PD non ha i numeri per far passare il disegno di legge sulle unioni civili. Vediamo per esempio questi messaggi su WhatsApp, che sono piccoli piccoli, io preferisco scrivere su Effetto Notte oppure sugli sms, però ci provo ogni tanto. Dice questo ascoltatore Diaz: ma è ovvio che il PD non vuole il Cirinà, altrimenti a quest'ora, dopo 3 giorni, avremmo bello che votato i 500 emendamenti, hanno messo il canguro per far abboccare le pecorelle, sarebbe stato come ricattare Giovanardi chiedendogli di votare a favore della liberalizzazione della marijuana. Era ovvio che il movimento non avrebbe mai accettato questo compromesso. A proposito del Movimento 5 Stelle, di questo scontro che c'è stato e continua a esserci in atto, anche se devo dire, lo ricorderò anche tra poco, che il movimento LGBT non sta vedendo di buon occhio, insomma, questa mossa del Movimento 5 Stelle. Ci sarà il 27 febbraio, mi sembra, una manifestazione in piazza a Roma. Poi al 349-238-6666 Nicola dice: normale che il PD non abbia i numeri, i bigotti del nuovo centrodestra non vogliono le unioni civili, il Movimento 5 Stelle deve smetterla coi giochi politici e appoggiare il PD. Tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ci risiamo ancora insieme, vedete, pochi istanti, e ancora i vostri messaggi sull'argomento che vi sottoponevo questa sera, relativo alla dichiarazione in serata che ha fatto la ministra Boschi da Bologna, cioè che sulle unioni civili il PD non è autosufficiente, non ha i voti, quindi bisognerà cercare un'intesa con chi ci sta. Cosa ne pensate? Come commentate? Che tipo di intesa secondo voi potrebbe esserci, o che tipo di intesa auspicate? Scrivo un ascoltatore al 349-238-6666 o ascoltatrice, mettete almeno un nome d'arte, vi dico sempre: ma se il PD ha i numeri, mette la fiducia, non menta la Boschi, l'hanno messa già tante volte. Poi sulla pagina Facebook invece: quasi 3 anni di travaglio, dice Cristiano, per dare vita a una bastardata tanto agognata, sarà un cesareo epocale se avverrà un'eterologa mai tanto detestata e tanto necessaria. Poi Lupo scrive: ma non era colpa del Movimento 5 Stelle, il governo e la sua maggioranza sono sempre stati divisi sul tema, il PD è sempre stato diviso su questo tema, perché questo cancan mediatico contro, addirittura eccetera eccetera, parla di Costantino da Gherardesca, che aveva attaccato abbastanza pesantemente il Movimento 5 Stelle. Anselmo dice: la ministra dice una grande verità, tant'è che non dovrebbero esistere il governo, non dovrebbe esistere il governo di cui fa parte. Adesso vi ricordo, prima allora di cominciare a entrare nel cuore degli argomenti, le notizie più importanti della giornata. Brexit e migranti al Consiglio europeo, al vertice appunto europeo tratta oltranza, c'è tensione con Londra per quanto riguarda appunto la Brexit, e con Vienna per quanto riguarda invece la stretta che l'Austria vuole dare al passaggio e anche alla richiesta di asilo dei migranti. Intanto in uno sbarco in Sicilia ci sono stati 2 morti. Italia, paese delle culle vuote, minimo storico delle nascite, ma anche massimo storico nel 2015 dei decessi. Lite con il Papa, Trump, candidato repubblicano, frena. Francesco is a wonderful guy, un meraviglioso ragazzo, una meravigliosa persona, ma il team del candidato intanto twitta: pensi alle mura vaticane. Obama colpisce in Libia, raid americani in Libia contro la mente della strage del bardo che sarebbe stato ucciso. E poi un ragazzo a Mosul ucciso, invece decapitato dall'ISIS, un ragazzo quindicenne, perché ascoltava musica occidentale. Unioni civili verso lo stop al canguro, e la ministra Boschi che dice i numeri dei PD non bastano. E l'insegnante scomparsa un mese fa è stata trovata morta in un bosco nel torinese Fermato. L'ex allievo sarebbe stata strangolata ed è morta Harper Lee, l'autrice del Buio oltre la siepe. Siamo dunque al consuntivo della politica della settimana. Saluto Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Fabrizio. Ciao Roberta, buonasera. Riepilogo velocemente alcuni dei temi principali. Naturalmente le unioni civili con lo stop al balzo del super canguro da parte del Movimento 5 Stelle, l'ira del PD, di gran parte del PD, con vari annessi e connessi, tra cui non solo il rinvio del disegno di legge ma anche questa dichiarazione che dicevo della ministra Boschi poco fa. Poi le candidature per il Campidoglio con i complotti per far vincere o per far perdere a seconda dei punti di vista, il nuovo scandalo di Tangenti nella sanità che si è abbattuto sulla regione Lombardia, le voci allarmanti poi smentite dal ministro del lavoro Poletti sulle pensioni di reversibilità, Renzi al Consiglio europeo che torna a parlare di immigrazione e poi molti altri temi che non credo che avremo il tempo di trattare. Quindi, tanto per estrarne uno a caso, caro Fabrizio Forché, io ecco estrarrei proprio un tema così, preso la busta numero uno, busta numero due, prendiamo la numero due. Unioni civili. Unioni civili. Tanto lì ti va a parare. Senti, allora, Fabrizio, per riassumere il più velocemente possibile, c'è stato il caos mercoledì in Senato perché c'era il super canguro del senatore PD Marcucci che doveva essere questo maxi emendamento, doveva avere l'obiettivo di far saltare tutta una serie, centinaia di altri emendamenti per rendere più snello l'iter del disegno di legge Cirinà. Naturalmente opposizione di centrodestra era contraria, però non si aspettava il PD che anche il Movimento 5 Stelle a un certo punto ha deciso no, noi non lo votiamo. Perché non lo votano? Perché dicono il Movimento 5 Stelle, noi vogliamo mettere insieme diritti ma anche democrazia, queste non sono procedure democratiche e quindi ci rifiutiamo. Il PD ha gridato, soprattutto alla relatrice del disegno di legge, la Cirinnà, ha gridato al tradimento. Vogliamo sentirla? Sentiamola. Sicuramente il rinvio c'è stato, un rallentamento c'è stato, questo è dovuto all'implosione della maggioranza che avevamo costruito per colpa dei 5 Stelle e del loro passo indietro. Stupisce che Di Maio e il direttorio abbiano voluto commissariare il gruppo dei senatori con i quali avevamo lavorato bene e con coerenza fino adesso. È chiaro che ognuno si prenderà le sue responsabilità, ma il PD vuole fare la legge, vuole fare una buona legge, vuole garantire i bambini e le famiglie arcobaleno. Allora, poi era ospite qui effetto notte Alberto Airola del Movimento 5 Stelle, senatore, al quale ho chiesto: ma senatore, come mai questa mossa del Movimento 5 Stelle? Parlate di democrazia, però ci sembra che il movimento gay, diciamo, nel suo complesso non abbia molto apprezzato, perché hanno protestato le famiglie arcobaleno. Davanti al Teatro Brancaccio proprio mercoledì sono andati vari attivisti gay a protestare contro Grillo. Ancora adesso, visto che si sta preparando una manifestazione il 27 febbraio in piazza del movimento LGBT, quindi ho detto probabilmente non è stato capito fino in fondo la vostra mossa. Sentiamo Airola come... Non è che abbiamo detto no, non votiamo la legge, a parte che questo emendamento peraltro non è ancora stato votato, quindi è venuta fuori la notizia come se noi avessimo detto di no a questa legge, e non è vero. Noi gli abbiamo chiesto: scusate, visto che questo emendamento l'avete usato per tenere in scacco chi faceva un ostruzionismo becero, che io peraltro ma anche non condivido magari personalmente, ma poi è tornato sui suoi passi, ritirate questo emendamento, votiamo questi 500 emendamenti che sono veramente una cosa fattibile in due giorni senza nessun problema, e rispettiamo il lavoro democratico del Parlamento. Giuseppe scrive: la fiducia c'è ma tarda ad arrivare come la fortuna. Poi Peppe dice: nessuna intesa, nessun compromesso, non deve passare, non deve esistere questa legge. Insomma, al di là di questo, Fabrizio Forché, dei molti messaggi che stanno arrivando, quindi è colpa del Movimento 5 Stelle oppure la Boschi dichiara il PD non è autosufficiente, quindi doveva pensarci prima? Come stanno le cose? C'è una gran confusione. Io credo sì. La politica ha delle sue logiche che poi sono inesorabili anche davanti a un provvedimento così complesso come questo, così importante davanti all'opinione pubblica, poi le logiche della politica prevalgono. Il 5 Stelle chiaramente vede la possibilità di mettere in difficoltà il PD in questa fase e quindi non ritiene di dover dare un aiuto al PD che tra l'altro in qualche modo, come dire, non è legittimato a meritare, nel senso che il PD poi ha le sue divisioni interne e quindi se poi non ha la forza per far passare questa legge, per far passare il super canguro, per accelerare sulla legge, è anche perché all'interno, al suo interno è diviso, e quindi dalla parte poi del PD è difficile accusare di tradimento il Movimento 5 Stelle nel momento in cui il PD non riesce a garantire una sua compattezza. Su questo io credo che i 5 Stelle hanno ragione, così come quando Grillo aveva detto, aveva lasciato libertà di coscienza dei suoi parlamentari, nel momento in cui era la stessa posizione di Renzi, è difficile insomma incalzare il Movimento 5 Stelle su questo. Per cui insomma credo che la posizione del 5 Stelle sia del tutto legittima. Questo poi è chiaro, è legittima, però poi effettivamente allora che cosa si vuole? Procedure democratiche, mettere in difficoltà il PD e dire il re effettivamente nudo, o far passare dopo anni una legge sui diritti civili? Probabilmente il 5 Stelle non è così compatto, non è così convinto poi nemmeno lui su questa legge, ma non lo è nemmeno il PD. E quindi non è che si può pretendere da 5 Stelle che sia un'armata che va avanti su questa legge, come nemmeno il PD è in grado di garantire. Sai però Aureliana ieri, che è un fuoriuscito del Movimento 5 Stelle qualche tempo fa, no? Adesso nel gruppo misto, ieri aveva ricordato che il primo provvedimento portato in aula come proposta di legge al Movimento 5 Stelle era stato addirittura il matrimonio gay, quindi neanche le unioni civili. E ieri lo ha ricordato, sì. Questa cosa, dice, come mai? Questo è giusto. Comunque questo non vuol dire che la legge non passerà, vuol dire che i tempi si sono allungati. Ora Grasso, la notizia di stasera è che Grasso probabilmente dice no anche ai tanti mini canguri che in realtà in questo caso tendevano più a mettere in difficoltà la maggioranza sulla legge, per cui il no di Grasso in questo senso sicuramente porterà a un allungamento dei lavori, però potrebbe portare anche a una serie di votazioni meno problematiche per il PD, e quindi la legge potrebbe avere il suo cammino. Certo, a un certo punto si arriverà probabilmente a scrutinio segreto sui voti sulle adozioni, e lì il punto interrogativo sicuramente resta molto alto. Adesso spostiamoci invece su Roma, le candidature per Roma. Sembra che tutti la vogliono e nessuno la prenda. Almeno all'inizio della settimana avevo iniziato la trasmissione L'Incipit con Paola Taverna del Movimento 5 Stelle, che aveva detto: qui mi sa che c'è un complotto per farci vincere, per far vincere il Movimento 5 Stelle a Roma, che sembrava paradossale come affermazione, perché diceva: sono così poco credibili i candidati del PD e del centrodestra, che mi sa che ci tocca vincere, però loro vogliono farci vincere, perché poi verranno meno i soldi per ripianare questo buco finanziario enorme di Roma, e così ci metteranno in difficoltà. Però invece oggi Virginia Raggi, che è anche ex consigliera, ha detto il contrario, ha aggiustato un po' il tiro, è uscita fuori ieri dalle comunarie che il Movimento 5 Stelle ha fatto online. Sentiamola. Noi cittadini, con questi dipendenti, con questi dirigenti onesti, con voglia di fare, riusciremo a invertire la rotta e a far ripartire la città. Quindi sì. Sì che vogliamo governare, caspita se vogliamo governare, quindi su questo non ci piove. Però intanto anche nel centrodestra, mal di pancia vari, sembrava che Bertolaso fosse finalmente il coniglio uscito dal cilindro dopo tutti i tormenti del centrodestra, il candidato unitario, no, di Berlusconi, Meloni e Salvini. Poi Salvini ieri invece si è tirato indietro, sentiamolo. Noi siamo soliti ascoltare i cittadini, quindi stiamo ascoltando e ascolteremo tantissimi cittadini romani, e in base a quello esprimeremo il nostro giudizio finale. Quindi a pacchetto chiuso non compro nulla, anche perché, ripeto, me lo aspetto da Nichi Vendola la dichiarazione che i Rom sono una categoria vessata e penalizzata, non dal candidato del centrodestra. Fini dice, poi magari lo sentiamo, dice: insomma, questi tre cuochi del centrodestra hanno fatto una maionese impazzita. Però effettivamente Bertolaso, rispetto al fatto di essere un candidato di centrodestra e magari ben voluto da Salvini, ha detto varie cose che evidentemente non sono piaciute a Salvini, cioè che lui è amico di Rutelli, che voterebbe se fosse un elettore Giachetti, candidato del centrosinistra, che non ha mai votato Berlusconi, che si sente un democristiano e che i Rom sono vessati, non c'entrano le ruspe che vorrebbe Salvini. Beh, temo che la dichiarazione appunto che ha fatto evitare Salvini sia soprattutto quest'ultima, ed effettivamente è sembrata imprudente nel momento in cui è stato appena scelto come candidato anche della Lega. Va detto che Bertolaso appunto non è un estremista leghista, e quindi giustamente dalla sua posizione secondo me anche equilibrata sul discorso dei Rom. La coalizione centrodestra non esiste più da tanto tempo, parliamo di coalizione, ma è chiaramente una finzione. Tant'è vero che quando sono arrivati a dover scegliere i candidati sono stati in grandi difficoltà un po' in tutta Italia, e a Roma io ho l'impressione che ora Salvini si possa davvero sfilare, addirittura si possa sfilare dal sostenere un candidato su Roma, che potrebbe essere forse appunto alla fine la scelta più ragionevole per un esponente di un partito che comunque è orientato soprattutto sul nord Italia. Per cui insomma mi sembra che la questione sul centrodestra è praticamente confusa. Il Movimento 5 Stelle, le dichiarazioni di oggi hanno riportato secondo me sulla giusta linea quello che era stato sicuramente un agasso precedentemente, lì il discorso del complotto insomma è stata davvero una cosa comica da parte del 5 Stelle, però visto il comportamento diciamo degli altri partiti effettivamente verrebbe quasi da pensare che vogliano far vincere il 5 Stelle. Non è così, ma ci sono tali difficoltà che alla fine davvero il 5 Stelle potrebbe prevalere. Visto che hai citato il Nord, allora sentiamo anche Maroni, presidente della Regione Lombardia, come ultima cosa su questo ulteriore scandalo nella sanità lombarda. Sono veramente incazzato perché il lavoro che abbiamo fatto, che stiamo facendo, che abbiamo fatto in questi 3 anni, che stiamo facendo con grande determinazione per garantire trasparenza, efficienza e una spesa migliore e più bassa nel servizio sanitario, Lombardo rischia di essere infangato, anzi viene infangato da azioni come quelle che sono state oggi portate alla nostra attenzione. Quindi un commento, Fabrizio Forché, per chiudere su questa vicenda. Non è la prima inchiesta sulla sanità lombarda, ma probabilmente non sarà l'ultima. La sanità lombarda è tra le più efficienti d'Italia, ma anche lei non si sottrae questi episodi di corruzione che riguardano sempre di più le regioni, e la sanità è davvero un bubbone da estirpare in tutta Italia, quindi anche la Lombardia, che è finalmente ben governata, ha le sue chiese sulla sanità. Fabrizio, ti stiamo un po' perdendo, ma abbiamo capito che dicevo, questi affari sulla sanità, non solo lombarda, insomma, sono un bubbone da estirpare. Fabrizio Forché, grazie e buon fine settimana. Grazie a te Roberta, ciao. Ciao Fabrizio. Per chiudere proprio questa prima parte, prima della pausa di ricreazione, ancora qualche vostro messaggio tra la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666, qualche WhatsApp quando riesco a leggerlo tra i tanti che arrivano, e piccoli, governo Movimento 5 Stelle giocano a scacchi con le unioni civili, ognuno vuole far emergere le contraddizioni dell'altro, scrive Costantino. Poi Alessandro, se il PD non ha i numeri si dichiari sconfitto sulla legge Cirinnà. Marilena dice sulla pagina Facebook di Effetto Notte, l'articolo 5, che sarebbe quello sulla step child adoption, fuori dal Cirinnà. La Nena dice il PD non ha mai voluto questa legge, se la sono messa nel programma per darsi un'ultima parvenza sinistrosa, ma se l'avessero voluta avrebbero messo la fiducia. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, tra poco altri temi. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi sino alle 22, e anche non solo con i tanti temi e gli ospiti, ma anche con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Questa sera argomento ancora di politica sulle unioni civili, con la dichiarazione della ministra per le riforme Boschi che in serata ha detto da Bologna il PD a questo punto non ha i numeri, non è autosufficiente sul disegno di legge delle unioni civili e quindi bisogna trovare un'intesa. Secondo voi quale intesa si può trovare o quale intesa auspicate? Anche Elias Maurizio Sosa Forero dice basta con questa legge Roberta, non c'è la maggioranza, è meglio spostare al prossimo anno, così se la fa con calma e bene, non è urgente. Elias, ti dico solo che dici spostare al prossimo anno, diciamo solo onestamente sono 20 anni che si aspetta questa legge, se invece la si facesse e basta, a un certo punto non ne parleremo neanche più. Continuate i vostri messaggi, intanto vi ricordo, visto che abbiamo fatto una pausa, se avete acceso in questo momento anziché puntualmente alle 21, quali sono le notizie più importanti della giornata. Migranti, l'Austria sfida l'Unione Europea, il Consiglio Europeo avvia il giro di vite, la trattativa con la Gran Bretagna appare in salita, il presidente francese Hollande si oppone a regole speciali per la City di Londra. Il rapporto Istat, l'Italia invecchia, siamo meno di un anno fa, culle vuote, boom di decessi e diminuisce anche l'aspettativa di vita, ne parleremo tra poco. Lotta al terrorismo, raid americani in Libia sul covo dell'ISIS, colpiti gli attentatori del Bardo, e a Mosul i terroristi islamici decapitano un quindicenne che ascoltava musica occidentale. L'autobomba ad Ankara, il gruppo curdo TAC rivendica l'attentato e dice la risposta a politiche di Erdogan, attaccheremo ancora. La polemica di Trump col Papa, il magnate repubblicano frena, Francesco è una persona meravigliosa, ma il team del candidato twitta pensi alle mura vaticane. Unioni civili, la ministra Boschi ammette, il PD non è autosufficiente, mancano i numeri, serve un'intesa con chi ci sta. L'insegnante scomparsa il 13 gennaio, Gloria Rosbock, è stata trovata morta in un bosco di Rivara, nel Canavese, fermato l'ex allievo, sarebbe stata strangolata. Lutto nella letteratura, è morta a 89 anni Harper Lee, l'autrice del Buio oltre la siepe, per l'anticipo di Serie A. Tra poco vedremo quali sono gli aggiornamenti. Bologna-Juventus 0-0 ancora, sì. Adesso invece parliamo del rapporto Istat, che certamente non è confortante, una fotografia dell'Italia in cui sono più i morti che i nati, ai minimi dall'Unità d'Italia addirittura i nati, e uno su cinque di italiani ha più di 65 anni. Quindi noi italiani siamo sempre più vecchi, con sempre meno bambini e con una speranza di vita che si sta riducendo. Il 2015 ha registrato non solo un minimo storico delle nascite, ma anche un boom dei decessi, e sappiamo da tempo che l'Italia non è un paese per giovani, ma insomma ci sono anche questi dati che è interessante analizzare. Allora vi farei sentire, oggi era intervistato da Simone Spezia Effetto Giorno, Giancarlo Blangiardo, che è professore di demografia all'Università Bicocca. Il 2015 ha in qualche modo generato mortalità e di situazioni che erano state beneficiate nell'anno precedente perché c'era stata una mortalità decisamente più bassa. Questo è uno degli effetti, poi tutto questo naturalmente si mette insieme, a mio parere, ad una riduzione dell'efficienza del sistema sanitario, perché inevitabilmente qualcosa c'è dietro, e poi anche al famoso effetto delle vaccinazioni non praticate. Cioè, nel 2014 c'è stata tutta una polemica sulle vaccinazioni che facevano male, la gente non si è vaccinata e poi in qualche modo ne ha pagato le conseguenze. Tutto ciò messo insieme porta a questi, diciamo, circa 60.000 morti in più, che sono una sorta di grande novità da parecchio tempo a questa parte, cioè non succedeva se non in tempo di guerra. E dice il professor Blangiardo che questo è dovuto probabilmente anche appunto alla campagna che c'è stata contro i vaccini. Ne parliamo con il professor Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Professor Ricciardi, buonasera, bentornato. Buonasera, buonasera. È plausibile che questo numero così alto di decessi nel 2015, un record addirittura dal secondo dopoguerra, non c'era un record del genere, sia dovuto a questo, secondo lei, professore? No, io sono assolutamente d'accordo con il professor Blangiardo. Aggiungerei un altro fattore, che il 2015 è stato l'anno più caldo da quando si registra la temperatura sulla Terra. Quindi questi tre elementi, quindi l'invecchiamento della popolazione, ricordiamo che ovviamente se la nostra base è fatta di persone molto anziane, addirittura vecchie, è anche naturale che queste a un certo punto muoiano, non è da stupirsi. Naturalmente il cambiamento climatico, naturalmente qualcosa che non funziona nei nostri sistemi sanitari, in particolar modo in alcune regioni che peccano di prevenzione e a volte anche di diagnosi e di cura, e poi sicuramente il calo delle vaccinazioni, in particolar modo quella antinfluenzale, che è scesa quasi del 50%, ha determinato che molte persone si sono ammalate di influenza, e non è sono morte, diciamo, direttamente per influenza un paio di centinaia di persone, ma sono morte per complicanza da parte dell'influenza a migliaia di persone, quindi questo è sicuramente vero. Vede, professor Ricciardi, perché molti che magari hanno anche diciamo un'età non più verdissima sono un po' contrari alla vaccinazione antinfluenzale, perché dicono: io tutto sommato sto abbastanza bene, non è che mi indebolisce farmi il vaccino, invece voglio, col mio sistema immunitario, insomma, continuare a farlo funzionare e vedere di resistere a possibili attacchi influenzali, insomma. È assolutamente il contrario, cioè il vaccino antinfluenzale è uno dei vaccini più sicuri E naturalmente quando si ha una certa età oppure si hanno delle condizioni di malattia è veramente un salvavita, come appunto stanno dimostrando questi dati. Per non parlare poi delle scene che abbiamo visto quest'inverno, cioè di pronti soccorso presi d'assalto, persone che erano nelle barelle, insomma quelle sono altre scene per cui molto spesso alla fine le persone muoiono oppure sono malate dopo appunto un percorso di quel tipo, quando ci si può vaccinare e questo vaccino protegge appunto contro quelle conseguenze. Quindi lei consiglia da che età soprattutto, professor Ricciardi? Allora, diciamo che convenzionalmente c'è una offerta attiva da parte del Servizio Sanitario Nazionale oltre i 65 anni e naturalmente per tutte quelle persone che al di sotto di quest'età hanno una qualche patologia, per esempio sono cardiopatiche, hanno patologie oncologiche, hanno diabete, queste vanno vaccinate tutte. Però diciamo si sta facendo sempre più strada anche l'ipotesi di vaccinare al di sotto di quest'età, proprio perché questo non è tanto diciamo compromissorio della salute, ma quando comunque uno sta a casa con l'influenza molto spesso perde diciamo giornate di lavoro, magari diciamo non riesce ad accompagnare i figli a scuola, quindi in quelle fasce d'età più giovani, al di sotto dei 65 anni, è sicuramente diciamo facoltativo tra virgolette, però è consigliabile anche per lui. Grazie professor Vartel Ricciardi. Grazie professore. Grazie a voi. Grazie, buona serata. Abbiamo adesso la viabilità e volevo dire ancora qualche vostro altro messaggio. Dice Doris da Trieste al 349-238-6666. Se decideranno i cattodem a dire come Prodi, si decideranno i cattodem a dire come Prodi, siamo cattolici adulti? Temo mai. Laici veri ci siete, sì, ma pochi in Parlamento, dice Doris. Poi invece un altro messaggio è questo di, vediamo se su WhatsApp, niente, troppo spacchettato, così come doveva essere il super canguro, secondo alcuni, quindi lo leggo con calma, dopo la viabilità. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta... Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Maurizio scrive il PD che si attacca al canguro. Vi piacesse adesso che ve lo votassi questa leggina di Unione Civile? Arrangiatevi, non ve la voto, in cambio voglio il reddito di cittadinanza, altrimenti non la voto. Scusa Maurizio, adesso un conto se è una questione ideologica, un conto se è una questione, come diceva il Movimento 5 Stelle, di procedure democratiche, un conto è dire io ti do questo e tu mi dai quello. Allora lo si fa sempre sulla pelle delle persone, non mi sembra queste proprio diciamo le risposte più date, però per carità è legittima l'osservazione di Maurizio dal suo punto di vista. Vi ricordo quali sono le notizie velocemente più importanti e poi ci sarà lo spazio europeo. Allora, dicevamo che è sempre in corso il Consiglio europeo sulla Brexit e sui migranti e si tratta a oltranza. E poi l'Italia, paese delle culle vuote, ne abbiamo appena parlato, minimo storico dell'Unità d'Italia, ma anche nel 2015 c'è stato un picco di decessi come non avveniva dalla Seconda Guerra Mondiale. Lite con il Papa da parte del candidato repubblicano Trump, che frena a un certo punto. Oggi ha detto Francesco è una persona meravigliosa, ma il suo team intanto twitta pensi il Papa alle mura vaticane. Obama che colpisce in Libia con i raid e sembra che sia stato ucciso la mente della strage del bardo in Tunisia. E poi a Mosul l'ISIS ha decapitato un quindicenne che ascoltava musica occidentale. Unioni civili verso lo stop al canguro e la ministra Boschi che dichiara il PD non è autosufficiente e quindi serve un'intesa con chi ci sta. L'insegnante scomparsa, trovata morta in un bosco nel torinese, fermato l'ex allievo e adesso vedo un aggiornamento che è stata fermata anche la madre di Gabriele De Filippi, Caterina Battista, lo hanno reso noto in serata ai carabinieri che la stanno interrogando col figlio nella caserma di Ivrea. Europa 24 notte. Si parla ancora di Brexit, il vertice iniziato ieri a Bruxelles ha visto i leader dei 28 impegnati fino all'alba in una discussione serrata che appunto è ripresa oggi, è ancora in corso. Sul tavolo le nuove condizioni che il primo ministro inglese Cameron chiede a gran voce per continuare a tenere la Gran Bretagna nell'Unione, se no la rottura sarà più che possibile, come ci racconta Maura Bertanzon. Per trovare l'ultimo pezzo d'Europa divisa in due bisogna andare a cercarla nell'estremo lembo orientale del Mediterraneo. Qui, di fronte a Libano e Siria, molto più vicina alle coste asiatiche del sud-est della Turchia che al vecchio continente, c'è Cipro, che però europea lo è per storia, cultura, tradizione e soprattutto perché fa parte dell'Unione. Qui una linea lunga 180 km, che taglia anche la città di Lefkosha, più nota agli italiani come Nicosia, divide l'isola in due parti. è la cosiddetta Green Line, confine tracciato sulla linea del cessate il fuoco del 74, in seguito al tentativo di colpo di Stato appoggiato dal regime dei colonnelli allora al potere ad Atene e al successivo intervento militare turco. Da allora, ma ufficialmente dall'83, a sud della linea si trova la Repubblica di Cipro, abitata dalla popolazione greca e riconosciuta dalla comunità internazionale. Dall'altra parte c'è la Repubblica Turca di Cipro Nord, riconosciuta solo da Ankara. Una situazione complessa e una ferita nel cuore dell'Europa che in tanti anni non è riuscita a risolvere il problema. Nel frattempo tutti gli abitanti dell'isola sono cittadini dell'Unione Europea, ma poiché il governo del Nord non viene riconosciuto, ogni ingresso da parte turca è considerato dal diritto internazionale immigrazione illegale. Da qui i problemi dei coloni turchi entrati dopo il 74 e dei loro discendenti, dei visti, delle proprietà di beni immobili e terreni e così via. Ora però la possibilità di un cambiamento sembra a portata di mano e su tutta l'isola si respira un certo ottimismo, come spiega il professore Rol Kaimak del Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali della Eastern Mediterranean University di Cipro. Sono ottimista, dice Kaimak, perché i leader sono sinceri, hanno tutte le intenzioni di completare i negoziati e sottoporli ad un referendum, chiedendo anche alla Turchia di esercitare il suo ruolo e naturalmente all'Unione Europea. Se questo accadrà, ci saranno possibilità, non posso dire più del 50%, ma ci sono ragionevoli possibilità che il problema venga risolto nei prossimi anni. A spiegare perché proprio il 2016 dovrebbe essere l'anno giusto è il ministro degli esteri della Repubblica Turca di Nord Cipro, Emine Çolak. Il 2016 sembra un tempo ragionevole per aspettarsi che il problema venga risolto, perché ora e nei mesi passati c'è stata un'intensificazione del dialogo per assicurarsi che ogni capitolo delle negoziazioni sia condiviso. Per molti anni ogni singolo capitolo è stato discusso più e più volte. Penso che sia possibile ora finire il lavoro. Quest'anno segnerà dunque davvero la fine della divisione di Cipro. Gli ostacoli non sono pochi. Primo tra tutti le elezioni di maggio nella parte greca, che vedono impegnato Nikos Anastasiades, uno dei due protagonisti del dialogo, insieme a Mustafa Akinci, presidente della Repubblica Turca del Nord. È grazie a questi due leader, il cui incontro della scorsa settimana a Davos è solo l'ultimo di una lunga serie, che il vento del cambiamento soffia oggi su Cipro. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Si parlava di Cipro naturalmente, adesso invece parliamo del tempo che ci aspetta con il nostro Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caro Paolo, portatore sano di sole, l'influenza cresce, parlavamo di vaccini, ma tu ci porterai naturalmente l'estate alle porte. Ottime notizie, questa volta proprio vinco facile, perché guarda, sarà un weekend primaverile in gran parte d'Italia, anche se proprio tra questa notte e domattina un po' di acquazzoni passeranno sul versante adriatico, ma in realtà poca roba. Per il resto tanto sole, temperature che domenica potrebbero superare i 15 gradi da nord a sud. Insomma, il freddo ormai quest'anno non arriverà sull'Italia, quest'inverno ce lo stiamo già lasciando alle spalle, se d'inverno si può parlare. Paolo, tu ce lo certifichi oggi che basta, più freddo di così non sarà fino alla primavera? Questo però non significa che sarà sempre bello, perché settimana prossima arriveranno nuove perturbazioni, ma davvero come temperature siamo a posto, diciamo così. Grazie Paolo Corazzone, una gran bella notizia, buon tempo a te, caro Paolo. Buon tempo a tutti, ciao. Non so invece se il sole splende in senso metaforico sulla partita Bologna-Juventus. Giovanni Capuano, che succede intanto? No, siamo ancora 0-0, Roberta. Secondo tempo che è iniziato da 4 minuti esatti e Juventus che sta facendo fatica per venire a capo di questa gara. Tra l'altro è il Bologna che nel primo tempo è stato più pericoloso e anche in questo avvio di secondo tempo, proprio pochi istanti fa, ha creato qualche problema alla difesa della Juventus. L'avevamo già raccontata l'occasione al 21esimo con una conclusione di destro da fuori area di rigore, la respinta di Buffone, poi Donsa, il suo tapin che si è perso, poi anche la Juve ha avuto un'occasione alla mezz'ora sugli sviluppi di un corner con Marchisio, la deviazione di Evra sotto misura, fuori di poco, però meglio il Bologna della Juventus, tant'è vero che Allegri è corso ai ripari, nell'intervallo ha sostituito Pereira che era il peggiore dei suoi, ha inserito Cuadrado, c'è anche un cambio di modulo, adesso sta facendo scaldare Dybala, perché è vero che martedì c'è la Champions contro il Bayern di Monaco, ma è vero anche che la Juventus, che ha appena trovato la vetta vincendo sabato scorso a Napoli, ha assoluto bisogno questa sera di vincere per evitare che i partenopei lunedì possano fare il controsorpasso. È difficile però. 5 minuti nel corso della ripresa, 0-0 a Bologna, tra Bologna e Juventus. Grazie Giovanni Capuano. E su questo risultato leggo ancora uno dei messaggi che stanno arrivando al 349-238-6666. Poi vi lascio come sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, dove potete continuare a oltranza a scrivere i vostri commenti. E dice questo ascoltatore: ormai tutti si definiscono cattolici, anche se poi credono a quello che pare a loro. Non ci pensano nemmeno un secondo a mettere piede in chiesa, ma va là, dice questo ascoltatore o ascoltatrice. Ci risentiamo alle 22.